E ben ritrovati ad una nuova puntata di Rock Legends, al microfono come sempre Gianluca. Altra puntata, nuova intervista, questa volta è il turno di una giovane formazione veronese che ci presenta il suo primo disco. A voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, noi siamo gli Holborn, io sono Elia alla batteria. Io sono Mattia, il chitarrista. Qui per voi in radio ci siamo solamente noi due e salutiamo tutti gli altri componenti del gruppo, ovvero Manuel, Alberto e Nicolò. Il nostro genere è hard rock, anche se spaziamo fra vari generi in realtà. Lo potete anche ascoltare nel nostro CD. Lo potremo ascoltare sicuramente. Con gli Holborn, una puntata tra AOR ed hard rock tra anni 70 ed 80, iniziata con i Journey, che ci hanno fatto sentire il brano Just the Same Way, dal disco Evolution del 1979. Formazione americana con all'attivo 75 milioni di dischi venduti ed un sound ancora oggi moderno che continua ad influenzare le band odierne. Che ne pensate? Ma devo dire che questo pezzo è gran figo per quanto mi riguarda. Anche un bel sound, per quanto sia degli anni 70, secondo me dimostra un suono evoluto, ecco, che può modernizzare anche la musica dei gruppi al giorno d'oggi. Perfetto. Gli Holborn si formano l'anno scorso, nel giro di pochissimo tempo avete già bruciato le tappe con la realizzazione di un disco. Come vi siete formati e perché questo nome? Noi siamo nati alla fine di un gruppo preesistente, fin dalle prime prove ci siamo messi a fare sul serio per permettere la realizzazione del nostro album. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una bella storia. Beh dai, raccontacela. Decisamente, dai, parlo io questa volta. Per molto tempo, diciamo, ci siamo concentrati sul trovare un nome al nostro gruppo. Certo. Ci siamo spremuti le meningi fino in fondo, tutti quanti, fino a quando un giorno eravamo in studio di registrazione, ormai abbattuti dal fatto che comunque non riusciva a venire fuori nulla. E io mi stavo rollando una sigaretta, no? Ecco. Con mio amato tabacco, Old Holborn. E ho detto, ragazzi, ma a sto punto, chiamiamoci Holborn. E loro mi fanno... No, ma che schifo, è brutto, no? Allora ci siamo messi un po' a ridere così, però scherzando e rischerzando sopra, alla fine abbiamo preso la cosa sul serio e abbiamo provato a cambiare qualche lettera fino a quando non è venuto fuori Holborn. Poi, che significa appunto tutti nati. Tutti nati. Questo nome calzava a pennello di fatto con il titolo del nostro album New Rock Generation. Noi siamo i tutti nati per la nuova generazione del rock. Esatto. Proseguiamo il nostro viaggio con l'AOR, con i Foreigner, formazione anglo-americana guidata da Lou Graham e da Mick Jones. Li risentiamo dal disco Head Games del 1979 con la canzone 17. Little sound diretto e incisivo che caratterizza in buona parte la produzione dei Foreigner, altra formazione premiata con dischi multiplatino in tutta la loro carriera. Che ne pensate? Esattamente, l'hai descritto benissimo, un sound diretto e incisivo, proprio come piace a noi. Vostre esibizioni, come sono andate finora e come ha reagito il pubblico ai live? Beh, finora sono andate tutte a buon esito e il pubblico ha reagito molto bene. La più emozionante è stata il 18 novembre al Baricentro, dove abbiamo presentato per la prima volta il nostro album New Rock Generation. C'era veramente tantissima gente, tutti esaltati e noi lo stesso. È stato fantastico. Decisamente. Questa prima parte finisce con i Toto, la storica formazione di Steve Lukather e David Page, debutta nel 1978 con l'omonimo album che riscuote subito grandi consensi di classifica in virtù di pezzi come Manuela Run.